Con l'inglese che parliamo io e te, Nicoletta, non lanciare per carità questa idea. Marchigiano. Perché li traumatizziamo questi bambini. Vedi che Torino va forte? Oggi siamo più Torino. Torino batte Ancona oggi. Il nostro mister Tattoo da Latina. Sono stipendietto. Sono puntata sul vino. Vedi che è venuta fuori. Dottor Cookie, basta una parola, E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Noi arriviamo a risolvere problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto, non l'ho creato io, montagna non mi sono mangiati io. Funziona così. Dal romanzo di Roberto Saviano, Gomorra, un film di Matteo Garrone. Gomorra, 2 milioni di copie vendute, 33 traduzioni, più di 2 anni al vertice della classifica dei bestseller, 8 anni dalla sua pubblicazione. Saviano fa un bilancio rilasciando un'intervista al settimanale El Paese. La reazione non è tardata, la notizia è stata battuta da tutte le agenzie, ma l'attenzione si è focalizzata su due frasi: prendo psicofarmaci per andare avanti e ho paura di finire in un ospedale psichiatrico. È bastata questa ammissione a trasformare l'intervista in un'intervista shock. In realtà Saviano ha parlato anche di altro e soprattutto di altro, degli amici che lo hanno abbandonato, della scorta che condivide con lui la vita, delle limitazioni con cui deve fare i conti ogni giorno. Ma l'accenno agli psicofarmaci ha fatto, come si dice, la differenza. C'è chi, leggendo tra le righe, ha interpretato questa dichiarazione come una richiesta di aiuto, chi come un fallimento, chi ancora come un'ammissione che in qualche modo potrebbe servire a far cadere i molti pregiudizi che ancora pesano sugli psicofarmaci, una grande famiglia verso cui nutriamo un sentimento, se così possiamo chiamarlo, di amore e odio. A noi, a Cuore Denaro, ha dato l'occasione per fare una riflessione a voce alta con i nostri esperti, che a cui chiediamo di aiutarci a capire quando sono necessari e quando invece si rischia di usarli senza un effettivo bisogno. Intanto saluto il dottor Carlo Gargiulo, che finalmente è tornato a trovarci, medico di famiglia. Buongiorno dottor Gargiulo, bentornato. Buongiorno Nicoletta, ben trovato, un saluto agli ascoltatori. Ma è proprio lei al telefono? Sì. Visto quello che succede da voi. Sono proprio io. In linea con noi abbiamo anche il professor Paolo Cavedini, psichiatra, professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori anche da parte mia. Dottor Gargiulo, iniziamo a sentire che effetto le hanno fatto le dichiarazioni di Saviano. Ma guardi, devo dire che sono rimasto molto perplesso, perché io di Saviano ho una grossissima stima, e far vedere che è caduto in un luogo comune così banale come quello di dire assumo psicofarmaci, come se fosse, non so, andato magari in farmacia, ne ha presi mezzetto, è andato in panetteria, se ne è fatti da... Insomma, parliamoci chiaro, se prendiamo degli psicofarmaci, questi devono essere prescritti da un medico, quindi qualcuno deve aver diagnosticato una patologia per cui sono necessari questi psicofarmaci. Non cadiamo nel luogo comune dove si dice, vabbè, me l'ha dati la vicina di casa o tanto per dormire. Qui bisogna fare proprio chiarezza, e oggi questa puntata sarà utilissima, credo il professore sarà d'accordo con me, sarà utilissima a chiarire che gli psicofarmaci sono farmaci a tutti gli effetti. Se Saviano avesse detto ho la polmonite e prendo gli antibiotici, qualcuno si sarebbe meravigliato. O se avesse detto ho la polmonite e ho paura di andare in ospedale, qualcuno si meravigliava? No. E allora cominciamo a dire che gli psicofarmaci sono utili, vengono prescritti dal medico di famiglia o dallo specialista quando servono, per il periodo in cui servono, e fanno la loro azione. Passo subito la parola al professor Cavedini. Il dottor Gargiulo è stato chiaro, ha messo dei bei paletti. Professore. Ma sì, sono assolutamente d'accordo. Anch'io sono rimasto un po' perplesso leggendo un po' delle interviste, perché se umanamente mi ha molto colpito, soprattutto quando Saviano sottolinea un po' il costo della ricerca della verità per ciascuno di noi, dall'altra parte, come dire, quel concetto che ha messo in luce con gli psicofarmaci rischia di diventare molto pericoloso, no? Perché non vorrei che passassi il messaggio che servono i psicofarmaci per gestire e superare le difficoltà della vita, pur grosse che siano, per carità, come quelle di Saviano. E allora ben venga questa nostra chiacchierata, che credo possa essere molto utile a tutti gli ascoltatori. Sì, nell'intervista Saviano riporta, non è non ne abuso naturalmente, ma li uso al bisogno. 800 24 00 24, psicofarmaci, quale effetto produce in voi questa parola? Li conoscete per esperienza diretta? Ne avete paura oppure pensate che in caso di bisogno possano rappresentare una soluzione al problema? Insomma, li considerate alla stessa tregua di altri farmaci o avete dei pregiudizi? Dottor Gargiulo, spesso è il medico di base che intercetta il problema o che viene interpellato dal paziente che chiede aiuto per un problema di ansia, un problema di insonnia, di alterazione dell'umore. Sì, spesso vengono da noi proprio per queste problematiche e qui il primo compito è proprio quello di fare una diagnosi prima di prescrivere il farmaco. Oddio, per carità, in qualche occasione si può anche dare una terapia cosiddetta sintomatica, magari quell'insonnia che viene per una situazione particolare di vita, di lavoro, di tensioni emotive, un momento difficile come magari una separazione o altre difficoltà che possono attraversare il nostro percorso di vita. Però in realtà a monte di tutto questo noi dobbiamo capire se c'è un disagio psichico sul quale, se può, interviene il medico di famiglia o meglio ancora chiede la consulenza del collega psichiatra e insieme a lui fa poi il percorso per il paziente dandogli i farmaci giusti. Professore, gli psicofarmaci dividono, c'è chi li teme, chi ne abusa, chi li assume quasi senza rendersene conto, perché nella grande famiglia degli psicofarmaci ci sono, d'altronde come un po' in tutte le famiglie, quelli che hanno fama di buoni e affidabili, quelli che invece hanno fama di cattivi e di pericolosi. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza? Io partirei da quelli che incutono più paura, che sono gli antidepressivi. Ecco, già la parola ci fa sentire malati. Senti, mi permetti di dire che tanto per cominciare che non parliamo di farmaci marziani, no? Cioè che vengono da Marte, sono farmaci che sono presenti tra tutti noi e l'uso di questi farmaci e le prescrizioni di questi farmaci è in crescita, ci sono delle statistiche, le vedremo magari, però in qualche modo partiamo dal presupposto che sono farmaci molto più comuni di quanto si possa credere e non devono essere visti semplicemente come l'ultimo rimedio nelle condizioni più gravi. Come dicevi tu, Nicoletta, parliamo di amore e odio, perché se da una parte c'è ancora una discreta sfiducia o timore per le frequenti risposte nei confronti delle prescrizioni farmacologiche, dall'altra parte però non dimentichiamolo, magari poi lo sviscereremo un po' più con calma nell'arco della nostra trasmissione, esiste una fetta di popolazione che vede negli psicofarmaci un po' la panacea per ogni tipo di disagio e che tende ad usarne anche quando non è strettamente necessario e talvolta anche ad abusarne. Facciamo un po' di chiarezza, dicevamo, io mi concentrerei su due delle classi principali, gli antidepressivi, poi magari avremo modo di parlare anche di farmaci ansiolitici o dei farmaci per dormire. Certo, allora, che ci fanno un po' meno paura, perché la depressione la viviamo come una malattia e temiamo le sue conseguenze, l'ansia invece è un disturbo, noi lo vediamo così, che coinvolge tante, che tocca tante persone, quindi essere ansiosi, ma il comune mezzo gaudio, quindi ci sono già due approcci differenti, diversi nei confronti di questi due malesseri. È vero, però sono due approcci che partono da dei presupposti sbagliati, perché come diceva prima il dottor Piangiolo, bisogna anche partire dal fatto che questi farmaci vanno prescritti nella stragrande maggioranza dei casi quando c'è una diagnosi di una patologia e non semplicemente per tamponare, se non occasionalmente, per carità, delle situazioni. È vero che la depressione spaventa di più dell'ansia e questo forse fa sì che gli antidepressivi, cosiddetti antidepressivi, siano tra le molecole più temute fondamentalmente. In realtà abbiamo a che fare con una classe di farmaci molto ampia che dobbiamo riconoscerlo nel corso degli anni è andata incontro a dei progressivi miglioramenti in termini di efficacia e di sicurezza. Allora, questi sono farmaci che agiscono su quelli che sono i neurotrasmettitori del nostro cervello, che se vogliamo lo ricordiamo un attimo, sono un po' i sistemi chimici che fanno funzionare il nostro sistema nervoso, la serotonina, la noradrenalina, insomma sono ormai parole abbastanza consuete. Sono farmaci che vengono utilizzati prevalentemente nel corso di cosiddetta depressione o comunque in tutti quei disturbi del tono dell'umore. Ma attenzione, perché però col tempo si è scoperto che questi neurotrasmettitori di cui parliamo sono poi coinvolti in altre patologie che guarda caso sono cosiddetti disturbi d'ansia, il disturbo di panico, il disturbo ossessivo-compulsivo. Quindi noi parliamo di antidepressivi per molecole che di fatto non curano solo la depressione, ma che sono molto efficaci in tante altre condizioni psichiche. Questo è già un po' un elemento di confusione, no? Per le persone, perché parliamo di antidepressivi e poi li diamo per curare dei disturbi d'ansia, quindi non il sintomo ansia, la manifestazione di disagio che, come dire, a cui reagiamo, ma anche una patologia come può essere il panico, tanto per capirci. Okay? La cosa credo che vada sottolineata è che sono farmaci che tendono a curare, passami la parola Nicoletta, passatemi la parola, anche se poi di fatto il concetto di cura presuppone conoscere delle cause e nel caso dei disturbi psichici non si sa moltissimo in questa direzione, però hanno un'azione su questi mediatori chimici e questo può portare dei miglioramenti. Attenzione però, ci mettono del tempo per funzionare questi farmaci, ci mettono 4, 5, anche più settimane e questo bisogna spiegarlo al paziente che li assume, per questo è importante la prescrizione medica, perché altrimenti c'è una sospensione immediata non appena vedo che non funziona, tendo a stimolare come dire, un continuo cambio di molecole, creando poi dei pasticci incredibili. Quindi bisogna prenderli sotto indicazione medica, nel confronto di una diagnosi ben precisa e bisogna avere pazienza per lasciarli funzionare. Dottor Gargiulo, vorrei entrare un po' nel suo ambulatorio. Quando lei prescrive un farmaco, un antidepressivo ad un paziente, ecco, il paziente chiede a quale categoria, di solito si prescrive il nome, no? Un farmaco ha un nome. Il paziente tende a chiedere, ma che tipo di farmaco è? Deve spiegarglielo lei? No, io in genere do sempre una spiegazione sui farmaci, anche quando uso i farmaci per la pressione o addirittura gli antibiotici, cerco sempre di essere un po' più chiaro col mio paziente, cioè fargli capire qual è il ragionamento che io ho fatto prima di prescrivere un farmaco e perché ho prescritto quel farmaco, proprio perché il paziente a quel punto diventa più aderente alla terapia, cioè accetta meglio se io gli spiego il perché, accetta meglio che io utilizzi un determinato prodotto. Anche nel caso dell'uso dei cosiddetti antidepressivi, è chiaro che, come diceva il professore, è difficile che un paziente che viene con un problema di ansia mi accetti un farmaco comunemente etichettato come antidepressivo. Allora bisogna spiegargli un po' che cosa significa la vita, nel senso questo alternarsi di una leggera ansia, di una leggera depressione che è il nostro quotidiano costante, in certi momenti diventa un alternarsi eccessivo, quindi delle onde eccessive, dove dall'ansia importante si passa alla depressione profonda e lì bisogna regolare, riportare un po' il tono nella misura giusta. Io con questa spiegazione devo dire che ottengo degli ottimi risultati perché la persona che è dall'altra parte capisce che gli sto dando più che un antidepressivo, quasi un neuroregolatore, chiamiamolo così, e con questo funziona meglio la terapia sicuramente. Dottor Gargiulo, lei fa più fatica a convincere un suo paziente perché il medico di base ha un vissuto molto differente rispetto a quello dello psichiatra, che fa più paura, e su questo di questo parleremo nel corso della trasmissione, ma lei fa più fatica a convincere una persona ad assumere un farmaco o a cambiare un po' stile di vita, perché molti farmaci, molte pasticche potrebbero essere evitati se diventassimo un po' soggetti attivi, no? Di prevenzione. Sicuramente sì, diciamo che far cambiare lo stile di vita è la cosa più difficile che un medico riesca a fare, perché in realtà le nostre abitudini diventano inveterate ed è difficile, vale per il diabete, vale per l'ipertensione, per le cardiopatie, vale per tutte le patologie, perché il cambiamento di stile di vita è utile per tutte. Se poi entriamo nel discorso invece delle patologie che riguardano la sfera psichica, lì spesso sono la conseguenza di un disagio non rimovibile, ad esempio una situazione lavorativa dove difficilmente si riesce a uscire perché la situazione del lavoro è critica, perché non si può trovare un nuovo posto di lavoro, perché i compagni di lavoro non vanno bene, il capo è dispotico. Ecco, lì bisogna cercare di fare un ragionamento diverso. Lì io sicuramente, e credo che il professore sia d'accordo, cerco di puntare anche su terapie cognitivo-comportamentali che poi aiutano e aiutano come i farmaci tante volte, e aiutano insieme ai farmaci. Abbiamo i nostri ascoltatori che stanno chiamando l'800240024, il nostro numero verde oggi a disposizione per cercare di capire qualcosa di più e capire il rapporto che abbiamo con questa grande famiglia di farmaci. Alcuni di questi ci fanno paura, altri, mi riferisco ad esempio agli ansiolitici, li viviamo in modo molto più tranquillo. In linea con noi abbiamo Vittoria da Roma e subito dopo Alberto che ci chiama da Luino. Vittoria, buongiorno. Benvenuta. Grazie dottoressa, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Senta, io volevo sapere, chiedere al dottor Gargiulo se gli psicofarmaci possono far ingrassare e rendere difficile una dieta dimagrante. Allora, queste, dottor Gargiulo, professor Cavedini, io giro la domanda ad entrambe, naturalmente, iniziando dal dottor Gargiulo. Sulla mia esperienza, onestamente sì, a parte l'effetto proprio di alcuni psicofarmaci diretto e immediato, c'è anche un effetto che rende più difficile magari il convincimento. La dieta ha bisogno di un grosso convincimento, cioè dimagrire significa affrontare alcuni sacrifici e portarli poi avanti nel tempo, e in qualche situazione devo dire che mi sono trovato un po' in difficoltà con il paziente per mantenere questo convincimento. È strano, e qui il professore potrà essere più chiaro di me, in altri casi una terapia di aiuto, di appoggio con questi farmaci ha migliorato l'adesione alla dieta, e questo non me lo sono mai riuscito a spiegare molto bene. Forse il professor Cavedini ha una spiegazione. Professore, vede, anche, abbiamo paura anche del fatto che del problema peso legato a questi farmaci. È un problema molto rilevante. Perché fanno ingrassare? Ma allora, possono agire in vario modo ed è sempre una questione soggettiva, perché come per ogni effetto collaterale è l'interazione tra la persona, quindi il suo metabolismo, i suoi equilibri biochimici e il farmaco, per cui non ci sono farmaci che fanno ingrassare indistintamente tutti, ok? A volte può essere semplicemente un effetto legato a un aumento un po' dell'appetito, quindi un aumento dello stimolo della fame che porta ad un incremento dell'introito calorico, e questo automaticamente si ripercuote sul peso. Altre volte è una questione proprio di modificazioni probabilmente di tipo metabolico, no? Quindi in questo caso è un pochino più complicato. Io penso sempre che sia importante innanzitutto non minimizzare gli effetti collaterali che la persona, che il paziente ti riporta, soprattutto quando, e il peso è in questo caso un problema importante, diventa un elemento, come dire, con il quale il paziente deve convivere anche per tempi lunghi, visto che generalmente questi farmaci hanno delle prescrizioni, stiamo parlando degli antidepressivi, che devono essere piuttosto prolungate nel tempo. Quando, come diceva il dottor Gargiulo, c'è probabilmente un effetto che agisce un po' sul ruolo della motivazione, sull'adesione comportamentale, sul senso di tranquillità, per cui il paziente può al tempo stesso dedicarsi ad una dieta con più regolarità, modificando anche contemporaneamente il proprio stile di vita, probabilmente si riesce un pochino a bilanciare da una parte il potenziale incremento di peso che i farmaci danno e dall'altra con l'atteggiamento dell'individuo più consapevole e più responsabile, che può in qualche modo portare a dei miglioramenti significativi di questo problema. Voglio leggervi l'SMS che mi manda Giulia al 349-238-6666. Lutti e solitudine, sono andata da uno psicoterapeuta che non ha fatto che ripetermi che la vita è bella, meglio i farmaci. L'SMS di Giulia mi dà lo spunto per chiedervi, in un momento di particolare difficoltà, come avete chiesto aiuto? Chi ve l'ha dato? Vi sono stati prescritti dei farmaci? Com'è andata? Avete lavorato con l'aiuto di uno psicoterapeuta? Oppure avete provato a farcela da sola per tirarvi fuori? 800 24 00 24, andiamo a Luino perché c'è Alberto. Buongiorno Alberto, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Saluto tutti. La mia era un po' una considerazione dovuta a un minimo all'esperienza di anni fa e un po' anche vedendo in giro altre situazioni, dove ho l'impressione che nel mondo della medicina lo psicofarmaco, è probabilmente così, però io non ho avuto questa percezione, viene visto come curativo. Sì. Tante volte penso invece che quando uno ha un problema psicologico, difficilmente con un farmaco lo mette a posto, sicuramente lenisci gli aspetti più acuti che rendono la vita brutta, invivibile. Ma da solo non basta. Ecco, bravo, è questa che volevo. È una domanda allora a questo punto, è giusto quello che penso o no? Allora, professor Cavedini, tante volte in occasione di puntate legate in cui abbiamo trattato dei disturbi di panico, dell'ansia, della depressione, abbiamo sottolineato il ruolo fondamentale dello psichiatra, che deve lavorare in sinergia con lo psicoterapeuta, e quindi non si può risolvere una situazione solo col farmaco, senza, soprattutto per particolari situazioni, senza mettere il paziente nella condizione di lavorare su di sé, con naturalmente magari l'aiuto di uno psicoterapeuta. Che cosa abbiamo capito male, o è questa un po' la tendenza? No, credo che abbiate capito benissimo, anche perché, come dire, siamo portati a vedere il farmaco come qualcosa che modifica la chimica del nostro cervello, ma in realtà le ricerche scientifiche più attuali ci dicono che anche la terapia comportamentale modifica la chimica del nostro cervello. Quindi l'effetto finale è comune, non chimica uno e chissà che cosa l'altro. Agiscono tutte e due modificando direttamente o indirettamente la chimica del nostro cervello. La terapia comportamentale quindi è un forte sostegno integrato alla terapia farmacologica nella cura dei disturbi, diciamo dei disturbi d'ansia, eccetera, eccetera. L'ascoltatore sottolinea il problema del concetto di farmaco curativo. È chiaro che la parola curativo presuppone sapere qual è la causa di una patologia. Questo, come dicevo anche prima, non lo sappiamo con certezza, abbiamo delle ipotesi, sappiamo cosa succede al nostro cervello, sappiamo che questi farmaci non fanno nulla nelle persone sane, sì. Quindi le persone che hanno una patologia, che hanno delle patologie depressive, ansiose, non è che se prendono questi farmaci in qualche modo alterano i loro equilibri. Quindi vuol dire sostanzialmente che in qualche modo i farmaci sono necessari, diciamo per curare, diciamo da un certo punto di vista, per rimettere un po' a posto delle sregolazioni chimiche che in qualche modo la patologia presuppone. Certo che se però non andiamo a modificare anche le nostre strategie comportamentali, i nostri atteggiamenti, non riequilibriamo anche la qualità della nostra vita attraverso un lavoro di tipo psicologico, psicoterapico, certo. I farmaci da solo non bastano. Tamponare dei sintomi, gestire un po' delle situazioni, ma evidentemente non è sufficiente. Professor Cavedini, adesso prima di andare a sentire i mercati, voglio leggervi un messaggio di Maurizio che ci scrive: dite per favore che prendere psicofarmaci o antidepressivi non vuol dire essere matti o inaffidabili nel lavoro. Questo è uno dei tanti pregiudizi con cui devono combattere le persone che sono in terapia. Ne parleremo, soprattutto grazie ai vostri interventi e alle vostre telefonate. Aiutateci a fare chiarezza. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme. Oggi parliamo di una grande famiglia di farmaci, gli psicofarmaci, perché vogliamo cercare di capire il rapporto che abbiamo con loro. Alcuni li viviamo come più pericolosi di altri, ci sono persone che ne prendono le distanze, altre invece che ci ricorrono alla pastiglietta per spegnere un disagio che potrebbe magari essere affrontato in altro modo. Parleremo anche di questo, della capacità che potrebbe avere ciascuno di noi di lavorare su se stesso, magari con l'aiuto di uno psicoterapeuta. Parleremo anche di rimedi naturali. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Cavedini e il dottor Carlo Gargiulo, ma c'è Paolo che ci aspetta da Padova, ha chiamato all'800 24 00 24. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno, mi racconti. Allora, il motivo per cui ho chiamato è questo, ascoltando l'intervento del dottor Gargiulo. Confermo, io sono una persona che per molti anni ha utilizzato gli psicofarmaci per spegnere gli stati d'ansia. Sì. Quindi un intervento solamente del momento. In periodo successivo invece ho contattato un medico, uno psichiatra, mi ha suggerito invece di utilizzare la famosa pastiglietta a cui faceva cenno lei, ovvero un antidepressivo. Uh-huh. Un antidepressivo che, come è stato correttamente indicato dal suo ospite, dal dottor Gargiulo, ha fatto sostanzialmente, credo, da regolatore di una serie di sì. fenomeni, chiamiamoli stati d'ansia o attacchi di panico, perché poi di fatto questi erano. E confermo che sono cambiate due cose. Il primo, sono ingrassato. Sì. E il secondo, però, ora posso affrontare tutto ciò che prima mi era inibito, quindi posso assumere uno stile di vita differente da prima, e quindi anche la corsa o il movimento prima mi era pregiudicato, e anche la qualità della vita è cambiata completamente. Paolo, adesso lei non prende più farmaci, quindi... No, continuo. Mi è stato suggerito dal medico, dallo psichiatra. Per il mio caso ritenne non opportuno fare un percorso anche di psicoterapia, ma ritenne assolutamente sufficiente la parte, diciamo, che si limitava all'assunzione delle pastiglie, mi ha suggerito di fare un percorso lungo. Assumo non più regolarmente, ma ho ridotto la quantità di questo antidepressivo. Gli attacchi di panico sono assolutamente spariti e ci vogliono comunque almeno 2 o 3 mesi prima che abbiano effetto. Voluto intervenire anche per un motivo, se sì. Altri 2 secondi, proprio perché è una testimonianza di fatto che le pastiglie, per quanto anch'io fossi ritroso all'inizio, in realtà non significa che le persone sono matte, come diceva su SMS, e realmente cambiano la qualità della vita. Grazie Paolo per questa testimonianza che vorrei condividere e commentare con i nostri 2 ospiti di oggi, con il dottor Carlo Gargiulo e con il professor Cavedini. Dottor Gargiulo, quindi da una diagnosi? Dalla diagnosi siamo arrivati ad una terapia e quindi la terapia si è dimostrata efficace, i risultati sono buoni, direi anzi ottimi da quello che ci è stato detto, e è segno evidente che, come dicevamo prima dell'interruzione, questi farmaci non sono da demonizzare, cioè sono farmaci a tutti gli effetti, sono prodotti che servono per migliorare alcune situazioni che si sono alterate, e questo miglioramento nel tempo non può che portare un benessere, così come se io ho la tosse prendo qualcosa che mi fa passare la tosse e questo mi porta a benessere. Professor Cavedini, veniamo alla terapia, alla durata. Paolo sottolineava, insomma, ci mettono un po' a fare effetto. Paolo è ancora in terapia, ma non è una terapia che diventa cronica. Cioè, l'assunzione di antidepressivi, di ansiolitici, di cui parleremo tra poco, perché non vogliamo dimenticare questa parte della grande famiglia, sono da assumere, e il medico che dice quanto dura la terapia, ma insomma a un certo punto della vita dobbiamo smettere. Dobbiamo smettere, ecco. E queste terapie devono sicuramente essere, almeno potenzialmente, poi chiaro dipende da caso a caso, delle terapie a scadenza. Ecco. Però, come il nostro ascoltatore sottolineava, ci mettono un po' di tempo a funzionare, parecchio tempo, quindi già dobbiamo mettere in conto questa fase iniziale lunga, e poi vanno portate avanti per tanto tempo, progressivamente riducendo il dosaggio, fino al punto in cui si prova a sospenderle. Ci sono degli schemi di riferimento sul buon uso di questi farmaci, quindi un medico che li prescrive consapevolmente e coscienziosamente sa quanto è necessario andare avanti per far sì che, diciamo, il farmaco possa potenzialmente esprimere il suo massimo effetto, cercando il più possibile di stabilizzare un po' la situazione, anche se è evidente che non abbiamo la certezza matematica che una volta sospeso il farmaco il problema possa non ritornare, perché questo non c'è per nessuna patologia medica. Medica, no? Certo. Nemmeno se ho un infarto sono sicuro che non mi possa tornare, anzi, sì. Per cui da questo punto di vista è una buona gestione farmacologica che deve cercare di fare le cose migliori possibili. Quindi le terapie sono molto lunghe, possono anche andare avanti diversi mesi, a volte anche dai 9-12 mesi. Ecco, le terapie sono lunghe, possono andare avanti anche molti mesi, ma ci sono persone che prendono per tutta la vita una pastiglietta, vuoi per dormire, vuoi per calmare l'ansia, non possono essersela autoprescritta, ma magari continuano a utilizzare quel farmaco che è stato prescritto dal medico e che non hanno interrotto. Su questo noi vogliamo naturalmente fare chiarezza. Che cosa state prendendo? Prendete farmaci per dormire? Ma ne avete parlato con il vostro medico, oppure continuate a ricorrere alla pastiglietta perché vi aiuta ad affrontare meglio la vita, a tenere l'umore magari più stabile, a dormire meglio? Perché il mercato di questi farmaci è molto in crescita. Salvadanaio. Negli ultimi anni è cresciuto costantemente in Italia l'uso degli antidepressivi. Dal 2004 al 2012 l'aumento percentuale è stato del 4,5%, per poi registrare una marginale flessione dal 2012 al 2013. Gli antidepressivi rappresentano una delle voci principali della spesa farmaceutica pubblica del nostro paese. Sono le donne a mostrare una prevalenza d'uso più alta, uso che aumenta in maniera costante a partire dalla fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni, in cui le donne assumono in media 44 dosi di farmaco ogni 1000 abitanti, contro le 37 degli uomini. Anche i problemi di natura economica e lavorativa, che in questi ultimi anni hanno interessato la maggioranza della popolazione, contribuiscono a generare condizioni di forte stress. Uno studio condotto dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ha rilevato che nel 2011 circa 11 milioni di italiani hanno fatto ricorso all'assunzione di psicofarmaci per combattere queste tipologie di malessere. Di questi, circa 5 milioni di persone hanno assunto tranquillanti e ansiolitici. I farmaci per il sistema nervoso centrale rappresentano la quinta categoria terapeutica a maggior spesa pubblica, pari a 1,5 miliardi di euro. Il contributo pro capite ammonta quindi a 24,6 euro. Professor Cavedini, molte di queste pasticche potrebbero essere evitate. E molte di queste pasticche evidentemente si prendono senza sapere esattamente che appartengono alla famiglia degli psicofarmaci. Sì, assolutamente. Stiamo parlando di quelli che sono gli ansiolitici, o come si dice in gergo tecnico, le cosiddette benzodiazepine, che altro non sono che farmaci che noi usiamo per placare la nostra ansia, per migliorare il nostro sonno. E sono dei farmaci, come diceva anche la scheda che abbiamo sentito, molto prescritti, diciamo gli psicofarmaci più prescritti al mondo, ma anche quelli più controversi, perché sono potenzialmente anche molto rischiosi. Non spaventiamo il nostro pubblico, non è tanto il rischio di una singola pastiglia presa che può mettere in pericolo le persone, però complessivamente sono farmaci che hanno un alto indice terapeutico, cioè ci fanno star bene subito, quindi danno immediatamente una sensazione di benessere, ma tendono anche a avere delle conseguenze molto importanti, che sono gli aspetti legati all'effetto della cosiddetta tolleranza, cioè la necessità di aumentare progressivamente il dosaggio del farmaco per avere la sensazione terapeutica, quindi il nostro corpo si abitua e io per sentire lo stesso beneficio devo aumentare la quantità del farmaco che prendo, e questo evidentemente, soprattutto se mal gestito dall'individuo e gestito soprattutto senza un medico alle spalle, può essere estremamente pericoloso, ma al tempo stesso faccio fatica a sospenderli, perché questi farmaci danno dipendenza, e quindi nel momento in cui io lo sospendo ho un incremento notevole dei sintomi d'astinenza, che sono sostanzialmente le stesse manifestazioni che io cerco di curare prendendoli, quindi mi ricompare l'ansia, mi ricompare la tensione muscolare, mi ricompare le sudorazioni, e quindi rimango schiavo di un meccanismo vizioso all'interno del quale l'autogestione diventa estremamente pericolosa. Quando servono invece in maniera corretta? Servono quando vengono prescritti per intervalli di tempo molto brevi, qualche settimana, generalmente tamponano la fase iniziale in attesa che i farmaci di cui si parlava prima, i cosiddetti antidepressivi, hanno invece per funzionare, quindi ci mettono un po', e quindi inizialmente io aiuto il paziente a stare bene quando serve, tamponandogli un po' le manifestazioni, oppure quando sono un coadiuvante dei momenti un po' della vita difficili, in cui i sintomi transitori che magari non configurano un vero e proprio disturbo, ma l'uso dell'ansiolitico può rimettere un po' in ordine gli stati emotivi e quindi aiutare l'individuo a ritrovare le risorse personali per gestire le difficoltà che si incontrano. Quindi in questo caso l'uso è molto sensato, ecco. Cuore e denari. Dottor Gargiulo, i dati dicono che le donne più degli uomini fanno ricorso agli psicofarmaci. Sì, effettivamente è vero, devo dire che anche la mia esperienza mi dice questo. Prima sentivo il professore che parlava della difficoltà poi di abbandonare questi farmaci, della difficoltà soprattutto di avere sempre lo stesso effetto. C'è proprio una sindrome, non possiamo citarla perché è derivata dal nome commerciale di un farmaco, ma c'è proprio una sindrome descritta in cui questi pazienti tutte le sere devono prendere la loro pasticchina. Addirittura a me è capitato pazienti che prendevano la pasticca per dormire che mi raccontavano che si erano svegliati ricordandosi di non averla presa e hanno assunto poi la pasticca per dormire. Cioè si arriva a dei paradossi certe volte, perché però alla base manca una comunicazione ben fatta, manca un rapporto medico-paziente giusto, perché se io riesco a indirizzare, a capire e a seguire il mio paziente così come faccio con altre patologie, diventa tutto molto più semplice nella gestione di questi farmaci, sicuramente. Enrica, buongiorno dalla provincia di Torino. Buongiorno a lei. A tutti. Io chiamo in qualità di psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, mi rifaccio un pochino al discorso della necessità anche di fare un trattamento psicologico e di trovare strategie per risolvere i propri momenti di crisi. Quello che però ci tenevo a dire è che nella mia esperienza ormai di 20 anni di psicoterapeuta, se non riesco a se non c'è un farmaco che tolga il dolore acuto, parlo ad esempio della depressione, io come psicoterapeuta posso fare ben poco, perché una persona che sta male non è in grado di accedere alle proprie risorse mentali, emotive, così come una persona che è regolata bene dall'interno. Quindi nel mio lavoro, per quanto io ci creda molto nel lavoro psicoterapeutico, la necessità a volte di rivolgersi, e parlo degli antidepressivi, è veramente molto importante e fa la differenza nella terapia e anche poi nella qualità di vita che un paziente riesce a ottenere dopo che ha superato quel momento, ma deve poter riuscire. Ecco, il momento acuto, mi passi il termine, Enrica, può essere superato dal farmaco per dare poi la possibilità allo psicoterapeuta di lavorare naturalmente in collaborazione con il medico di base o lo psichiatra. Quindi dovete fare squadra. Grazie Enrica dalla provincia di Torino che ci ha chiamato all'800240024 e andiamo subito a Cecilia da Roma, buongiorno. Buongiorno, io sono proprio uno di questi casi che avete appena raccontato, io mi sento di star facendo squadra sia con il mio psichiatra che con la psicologa che mi segue, io sono, diciamo, ho avuto un'esperienza di depressione felice, se si può dire così, nel senso che ho 45 anni in questo momento e tempo fa ho avuto un momento episodico depressivo piuttosto forte, ho rifiutato completamente i farmaci, però il medico è stato molto molto bravo perché mi ha proposto un percorso farmacologico che io sono stata poi nel tempo capace di accettare. Ovviamente ho puntato i piedi come ho potuto, dimenticandomele, facendo tutto quello che facciamo noi quando ci vengono proposte, però il medico, l'esempio che mi ha fatto è stato che la depressione è proprio come un avvallamento del terreno, dobbiamo rimettere la terra in quel buco perché la macchina possa passare. Questo è stato proprio il disegno che mi ha fatto. Guarda, Cecilia ci ha dato un'immagine terapeutica. Guardi, è stata quella che mi è stata fornita a me e io mi sono aggrappata mani e piedi e cuore a questa immagine anche nei momenti più difficili e vorrei, se posso con la mia esperienza, dare un momento di conforto a chi in questo momento, ieri, oggi, domani, gli verrà detto di prendere i farmaci. Innanzitutto cercate un bravo medico, non vi accontentate del primo che capita, la ricerca sta facendo grandissimi passi avanti, io ho continuato sempre a lavorare, non ho mai lasciato un giorno, non ho mai perso un giorno di lavoro, ma al massimo sono arrivata mezz'ora in ritardo qualche volta perché ero un po' stanca, un po' assonnata, però poi è passato anche quello, il lavoro aiuta, l'impegno aiuta, ma soprattutto in quelle 3-4 settimane in cui veramente i farmaci sembra che non facciano effetto, cercate l'aiuto di tutti, degli amici, andate al cinema anche tutte le sere, fate qualcosa perché il tempo deve passare, queste 3 settimane devono passare, poi riviene un po' di sole. Cecilia, come si dice, con la sua telefonata abbiamo fatto puntata. Io potrei chiudere qui, il professor Cavedini va a casa, anche il dottor Gargiulo, ma siamo tutti contenti perché immagino, professor Cavedini, Cecilia ha mandato un messaggio molto chiaro, dettato dalla sua esperienza personale che ha toccato tutti noi. Se Cecilia è libera la assumo per parlare con i miei pazienti. Ecco, vede, qua si trova anche lavoro. Perché è uno spot favoloso, non della, come dire, semplificazione dell'uso dello psicofarmaco, ma anzi della complessità, perché ha parlato delle difficoltà, della necessità di ricorrere agli strumenti esterni, dell'utilità degli psicofarmaci, della sua reticenza. Quindi, come dire, ha veramente disegnato un modello, credo, molto utile ai nostri ascoltatori per far capire dove collocare la terapia farmacologica senza dimenticarsi dell'importanza di tutto il resto. E quindi questo va un po', come dire, di pari passo con quello che diceva prima un altro ascoltatore, chi prende gli psicofarmaci non è matto, assolutamente. Non va stigmatizzato, non va allontanato, perché non allontaneremo mai uno che prende un antibiotico e quindi non si capisce perché dobbiamo farlo nei confronti di questi farmaci. Essere e benessere. Sono seriamente preoccupata. E poi tutte quelle medicine che prende, è per questo, è per quello. Io invece non prendo mai medicine, le detesto. Ah, io pure. Un'aspirina di tanto in tanto, fine. Io nemmeno quella, forse ne avrò presa una d'aspirina a 10 anni. Ma quando hai mal di testa come fai? Oh, io non ho mai mal di testa, non so cosa sia il mal di testa. Io sono contro tutte le medicine. Ci sono persone, e me lo state scrivendo anche voi al 349-238-6666, che alla parola farmaco, qualunque tipo di farmaco, dice no grazie, scelgo qualche rimedio naturale, una via all'apparenza più soft, più dolce, perché rincuora, fa meno paura, abbiamo bisogno magari di un aiuto ma non siamo malati, non è grave. In questo atteggiamento c'è anche la credenza che il naturale possa curare, comunque non nuocere. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di Medicina Integrativa all'ospedale Careggi di Firenze. Buongiorno, dottor Firenzuoli. Nicoletta, buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. Ci sono, dottor Firenzuoli, delle persone che cercano di combattere l'ansia o delle alterazioni del loro umore, l'incapacità di magari affrontare una notte serena, insomma tutti questi disturbi che noi mettiamo sotto, no, il cappello di un malessere, non vogliono andare dal medico, non vogliono fare ricevere diagnosi per la paura di prendere farmaci che magari neanche il medico li prescriverebbe. Si affidano ai rimedi naturali perché l'erba, l'erbetta fa meno paura. Dottor Firenzuoli, ma lei ha tante volte sottolineato che il fatto che sia naturale, se può fare bene, necessariamente può anche fare male. Vogliamo approfondire questo aspetto? Ci aiuta? Ah sì, certo, volentieri, perché, grazie della domanda. Perché è un po' il suo cavallo di battaglia. Anche perché, bene o male, volenti o nolenti, dentro alle piante ci sono delle sostanze, ecco. Quelle che danno il colore, quelle che danno la forma, la struttura, il sapore, il profumo, e sono sostanze chimiche che effettivamente nei casi anche più banali, come dire, problema di tipo transitorio, disturbo d'ansia abbastanza leggero, disturbo del sonno, e così possono tranquillamente risolvere anche senza problemi, e per questo può essere sufficiente a volte anche una tisana, non fosse altro per l'effetto placebo. Sì. Ma ecco, diciamo subito che rimedi di tipo naturale possono essere utilizzati benissimo anche come i medicinali di sintesi, proprio sfruttando le sostanze che ci sono dentro in maniera concentrata, controllata, standardizzata, e quindi andare a sfruttare proprio le loro caratteristiche farmacologiche. Perché ad esempio la classica tradizionale valeriana, oggi sappiamo che alcuni dei principi attivi contenuti nella radice della valeriana vanno ad agire su dei recettori per l'acido gamma aminobutirrico. Sì. È lo stesso recettore su cui agiscono le benzodiazepine. Per cui significa, insomma, il meccanismo d'azione. Buongiorno dottor Firenzuoli, a presto. Cuore e denari. Sono 11 milioni, secondo l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, gli italiani che hanno fatto ricorso all'assunzione di psicofarmaci per combattere una serie di malesseri che sicuramente la crisi economica ha amplificato. Di questi 11 milioni, 5 hanno assunto tranquillanti e ansiolitici. Ne stiamo parlando insieme al dottor Carlo Gargiulo e al professor Paolo Cavedini, riprendendo anche l'intervista di Saviano, che ha raccontato, facendo un bilancio a 8 anni dalla pubblicazione di Gomorra, quanto questo libro gli sia costato, e ha affermato di ricorrere agli psicofarmaci e anche di avere il timore di finire in un ospedale psichiatrico. Oggi, con l'aiuto delle vostre telefonate e con naturalmente il contributo dei nostri esperti, cerchiamo di vederci più chiare, quindi di eliminare quei pregiudizi che aleggiano intorno a questi farmaci. In linea con noi abbiamo Luciano che ci chiama da Pescara. Buongiorno Luciano. Buongiorno a voi e grazie per la vostra ospitalità. Grazie Luciano, ci racconti. Allora, praticamente volevo esporre il mio problema. Sì. Allora, io ho passato un periodo un po' particolare della mia vita in senso lavorativo. Mm-hmm. E praticamente un giorno ho avvertito un bruciore alla bocca che è persistito nel tempo. Quindi ho cominciato a prendere degli ansiolitici. Premetto che non sono un depresso, quindi conduco una vita. Ma quando molto, lei mi dice, regolare. Luciano, che così ho iniziato a prendere degli ansiolitici, chi glieli ha dati? Mi ha dato il mio medico, perché lui sa che sono un tipo abbastanza ansioso, certo. Quindi mi ha dato, dice, guarda, con degli ansiolitici risolvi il problema. Io ne assumo due alla mattina, che sostanzialmente mi aiutano per tutta la giornata, come coadiuvante mastico dei chewing gum, diciamo, no? In modo che non sento questo bruciore. Però noto che la sera, finito l'effetto di questi ansiolitici, prendo due pillole solo la mattina, però e questo bruciore alla bocca, alle labbra, alla lingua, mi ritorna sistematicamente. E la cosa più strana è che poi prendo sonno regolarmente e alla mattina, quando mi sveglio, questo bruciore, io mi sveglio proprio col bruciore in bocca. Sì, allora, ecco, naturalmente, Luciano, la sua è una ci ha raccontato un po' la sua esperienza. Naturalmente, né il professor Cavedini né il dottor Gargiulo possono entrare nel merito della terapia che le è stata prescritta dal suo curante. Ma, dottor Gargiulo. Ma io direi che probabilmente il collega avrà fatto tutti gli accertamenti necessari per capire se il sintomo non abbia una causa organica nascosta dietro, quindi sono sicuro di questo, per cui alla fine sarà arrivato alla prescrizione di questi farmaci che riducono il disturbo. Non vorrei che magari il disturbo viene ridotto perché il farmaco riduce un po' la sensibilità al dolore, però è chiaro che è difficilissimo fare un ragionamento di questo, ecco, tipo. Ma la cosa importante è che l'abbia prescritto il medico, e su questo siamo perfettamente d'accordo che il percorso è quello corretto. E il secondo passaggio è, se siete in terapia e chiedo aiuto al professor Cavedini e qualche cosa non vi torna, c'è qualche effetto collaterale, vi sentite più stanchi o insomma avete qualche dubbio, parlatene con il medico che vi ha prescritto la terapia. Non andate a cercare su internet, non fate di testa vostra, non diminuite le dose, non prendetene di più, perché sono farmaci che, come tutti i farmaci, ecco, e lo sottolineo, devono essere maneggiati con cura. Professor Cavedini, che dice? Dico che sono perfettamente d'accordo. Mi assume come l'altra ascoltatrice, come la nostra ascoltatrice? Conti, se posso stipendiarne due, ma va bene. Assolutamente sì. No, scherzo a parte, sì, perché sono farmaci, è una terapia, quindi va prescritta in presenza di una diagnosi, in presenza di un problema. Il medico può valutare esattamente tempi, modi, sospensioni, riduzioni, dosaggi, le interazioni con gli altri farmaci che stiamo prendendo per altri motivi di tipo medico internistico, le eventuali problematiche mediche organiche dalla pressione alta, cioè tutta una serie di aspetti che evidentemente non possono né essere rintracciati su internet in maniera adeguata né tantomeno essere nelle competenze di ciascuno. Quindi i problemi che un farmaco può dare, così come anche l'utilità o meno, deve sempre essere in qualche modo sottesa ad un buon rapporto con il proprio medico prescrittore, al quale bisogna rivolgerci anche per i dubbi, tra virgolette, più banali, più stupidi, certo. Anche quelle cose che ci vengono in mente e che in qualche modo in quel momento hanno necessità di una domanda. E per il medico questo è molto importante, perché se si crea questo rapporto si aumenta l'adesione, certo, alle alla proposte terapeutiche dei pazienti. Ecco, un altro aspetto, professor Cavedini, che volevo sottolineare è: riflettete, perché la pastiglia non può diventare compagna di vita. Volevo leggervi un messaggio che ci manda Selmer. Quando mi sono accorto che appena mettevo in bocca la mia irrinunciabile pastiglietta per dormire mi veniva subito sonno, ho capito che ero io la soluzione, non la pastiglia. Da quel momento non le ho più prese, ho dormito lo stesso. Ha fatto bene, professor Cavedini, Selmer, o forse avrebbe dovuto parlarne con il medico? Insomma, ci sono delle pastigliette che noi prendiamo, anche se non ci fanno paura, perché non pensiamo che siano né antidepressivi né ansiolitici, e che diventano nostre compagne di vita e di cui diventiamo in un certo senso dipendenti. Selmer ha dato un taglio netto, ma professor Cavedini ha fatto bene, allora, o ha fatto male? Lo stiamo dicendo da tutta questa mattinata, avrebbe dovuto parlare col suo medico, prescindendo poi che l'esperimento, mi passi il termine corretto, è andato bene, però dietro a questo non sono state considerate anche problemi legati alla sospensione, alla brusca sospensione, di una quantità che può essere anche minima per quello che ci sembra all'interno di una pastiglietta, ma che in realtà è una sostanza attiva che agisce sul nostro cervello e che quindi va tenuta in seria considerazione. È chiaro che dall'altra parte come dire, il nostro ascoltatore, se vogliamo, si è posto quantomeno la domanda se quella pastiglia era davvero necessaria, quindi questo è un atteggiamento meritorio di un plauso, però le cose vanno fatte, ce lo stiamo dicendo, vanno fatte bene. Vanno fatte ecco, bene, noi cerchiamo di farle bene e cerchiamo di dare risposta anche a Livio Osvaldo, che ci chiamano all'800240024, perché poi abbiamo in linea la dottoressa Monica Piccinni, buongiorno, psicologa, psicoterapeuta, buongiorno dottoressa Piccinni. Buongiorno Nicoletta. Lei ci darà una mano oggi, perché noi vogliamo cercare di dare anche dei consigli alle persone che in questo momento non hanno bisogno magari del farmaco e però stanno vivendo dei momenti un pochino di fragilità. Si possono prevenire delle situazioni anche di crisi lavorando sul nostro stile di vita, sulla nostra quotidianità, ma prima andiamo a Roma. Livio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno Livio, venga subito alla domanda così diamo tante risposte. Vengo subito alla domanda, la principale domanda era se i psicofarmaci interferivano con le attività sessuali. Era questo. Questa è la domanda, dottor Gargiulo, farmaci antidepressivi e attività sessuale, c'è una relazione? Con gli antidepressivi non c'è una relazione, o per meglio dire ci sono state delle relazioni positive, tant'è vero che un antidepressivo viene utilizzato nell'eiaculazione precoce. Infatti. Non funziona come antidepressivo, ma funziona bene per l'eiaculazione precoce, quindi ci sono delle interferenze, ma non in senso negativo, ad esempio che possono indurre una disfunzione erettile. Quella può avvenire perché se c'è una depressione di base l'attività sessuale viene messa un pochino da parte e un pochino accantonata. E per quanto riguarda invece gli ansiolitici? Per quanto riguarda gli ansiolitici possono indurre una diminuzione della libido, cioè proprio del desiderio sessuale, e quindi questo chiaramente può influire su una corretta attività sessuale. Osvaldo, buongiorno da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno a lei Osvaldo. Complimenti per la trasmissione. Grazie, complimenti a lei anche che ci ha chiamato. Sì, volevo fare una domanda. Per vari motivi familiari così, a un momento della mia vita ho dovuto prendere, ho vissuto momenti di ansia in cui poi ho conosciuto una persona che mi ha fatto un po' da psicoterapeuta, cioè ero un psicoterapeuta, e poi però a un tratto sono andato un po' diciamo in confusione e mi hanno mandato da uno psichiatra e ho cominciato a prendere i farmaci. Sì. Poi tutto si è risolto abbastanza bene, non ho mai perso un'ora di lavoro né niente, ho sempre fatto anche allenatore, sì, né niente, non mi ha mai precluso nessuna attività, però adesso sono in pensione, i problemi ci sono ancora, però sto prendendo, mi hanno tolto tutto, mi avevano lasciato perché volevano togliere tutti 10 gocce di Yen durante il giorno, adesso le prendo solo la sera. Perché fatico, cioè dentro di me ho paura di non riuscire a dormire, solo quella mia. Certo, c'è un po' questa sorta di dipendenza. Grazie Osvaldo. Professor Gavedini, riesce a dare una risposta rapida a Osvaldo, che serve a tutti gli ascoltatori che si riconoscono nel suo problema? Beh, allora lui ha fatto un percorso farmacologico, poi piano piano, indipendentemente che sia andato in pensione o che lavori, in qualche modo si è creata la possibilità di una riduzione, di una sospensione dei farmaci, lasciando un po' questo residuo di ansiolitico, che il farmaco che il nostro ascoltatore ha nominato è una benzodiazepina, che lui usa più, come dire, un po' legata al concetto di ansia anticipatoria, quindi la paura che certe cose vadano male ci spinge in qualche modo a tamponarle un po' inizialmente, e questo è un po' quello che succede a tutte quelle persone che tengono quel piccolo residuo di farmaco la sera per dormire senza che se ne abbia la reale dimostrazione che realmente sia necessario. Dovrei parlarne prima o poi. Io non, tanto vale non che riesco a concentrarmi lì dentro, riesco solo a pensare alla mia stanza da meditazione e a come arredarla. Mi vuoi sfottere? E tu vuoi sfottere me? La stanza da meditazione è dentro di te, mandibola, devi arredare quella. Parli sempre per slogan autoadesivi. Certo, ed eccotene un altro. Devi imparare a scegliere i pensieri allo stesso modo in cui scegli i vestiti ogni giorno. Ecco, questo è un potere che puoi coltivare. Se ci tieni tanto a venire qui a controllare la tua vita, lavora sulla mente. È l'unica cosa che devi controllare. Se non riesci a dominare i tuoi pensieri, sei nei guai per sempre. Io ci sto provando. Ecco, appunto, è questo il problema. Smettila di provarci, arrenditi. Va fuori in giardino e siediti lì. E ferma la tua mente, poi guarda che succede. Perché non lasci che succeda e basta? Ecco, noi vogliamo oggi proporvi di coltivare, costruire anzi, una piccola stanza di meditazione Le ricerche dicono, e una delle ultime in ordine di tempo è quella della Johns Hopkins University di Baltimora, che la meditazione è un strumento molto efficace contro l'ansia e anche la depressione. In linea l'abbiamo già salutata la dottoressa Monica Piccinni. Dottoressa, di meditazione se ne parla sempre di più, lo ha fatto anche il regista David Lynch, che qualche settimana fa in visita a Milano ha parlato proprio dei benefici della meditazione anche per gli studenti, si dovrebbe riportare a scuola. La parola a molti fa un po' di paura, prendono le distanze perché pensano che la meditazione sia qualcosa di molto difficile da raggiungere, ma in realtà c'è anche una meditazione un po', mi passi il termine, all'acqua di rose, che può dare i suoi effetti. Assolutamente. Allora, intanto, come dire, meditare, quindi la parola meditazione vuol dire prestare attenzione momento per momento e intenzionalmente, in maniera non giudicante, a quello che si fa, quindi alle proprie sensazioni, percezioni, alle proprie emozioni, ai propri pensieri. Lo scopo della meditazione è quindi quello di aiutarci a portare la nostra mente nel qui e ora. Così finalmente magari riusciamo ad essere liberi dal sentirci sempre o nel passato rispetto ai nostri pensieri o nel futuro, ma mai nel presente. Quindi rilassiamo il nostro cervello che cerca vorticosamente sempre di fare qualcosa e di pensare a qualcosa, così da allentare le decontrazioni, come dire, le tensioni muscolari, neuromuscolari direi. Allora, io a questo proposito, se volete provare questo esercizio di meditazione come una sorta di portateco, vi rimando alla pagina di Cuore Denari, dove abbiamo la possibilità di riascoltare questa meditazione guidata da parte di Daniele Belloni e di Susi Stefanini, che ci possono aiutare in qualche modo a così prendere un po' di mestichezza, almeno con la respirazione, che tante volte scioglie i pensieri. E a proposito di respirazione, anche il fare fiato, l'attività fisica, dottoressa Piccinni, aiuta anche a tenere sotto controllo lo stress, non dobbiamo mai dimenticarlo. Assolutamente. Vero? Sì, è una chiara connessione, assolutamente sì, tra esercizio fisico e benessere psicofisico, mentale. Diciamo che gli effetti positivi dell'attività fisica sulla salute ormai sono noti da tantissimo tempo, in particolar modo per esempio sul sonno, certo, sulla depressione, sull'ansia e naturalmente anche sullo stress, quindi sulla gestione, sulle strategie di coping che possono esserci nella gestione dello stress. La settimana scorsa il dottor Ongaro ha parlato di diario alimentare, perché raccontavamo che non sempre abbiamo la consapevolezza di quello che mangiamo, tante volte ci mettiamo sulla bilancia e diciamo sono aumentato, non mangio nulla. Io penso che possiamo suggerire anche ai nostri ascoltatori, dottoressa Piccinni, di fare un diario emotivo, che può essere assolutamente d'aiuto per guardare un po' le emozioni con una sorta di distacco, no? Sono d'accordo, è sicuramente una tecnica, una pratica che si può utilizzare. Diciamo che la scrittura comunque ha un alto potere comunicativo e anche liberatorio da sempre, anche perché è uno dei metodi più efficaci e sicuri per sia scambiarsi informazioni che invece per esprimere i propri vissuti emotivi. E dal punto di vista psicologico, come dire, ci dà anche un po' l'illusione di poter lasciare un segno, no? Bello, mi piace. Di far sì che i nostri pensieri sopravvivono a noi stessi. Quindi questi diari. Meditate, correte e scrivete. Ok. Va bene, possiamo, queste sono le tre parole chiave. A proposito di scrittura, abbiamo lanciato un'iniziativa, Cuore Denari Vitali, potete andare a riascoltare gli incipit di Andrea Vitale, uno per la parte cuore, l'altro per la parte dei denari. Non voglio farvi venire l'ansia, ma entro mezzanotte mandateci i vostri racconti completando gli incipit di Andrea Vitali in 24 righe, che sono circa 2500 battute. Vorrei salutare il dottor Gargiulo e il professor Cavedini, che ci salutano con un messaggio. La dottoressa Piccinni ci ha regalato tre parole: meditate, correte, scrivete. Professor Cavedini, vada lei, qual è il messaggio di oggi? Il messaggio è di non temere gli psicofarmaci e comunque di non temere il rapporto con lo psichiatra, col medico, con lo psicoterapeuta, perché può essere, come dire, molto utile a farci vivere decisamente meglio. Quindi tirate fuori i vostri problemi e sicuramente gli psicofarmaci possono avere un ruolo in questa situazione. Grazie al professor Cavedini. Passiamo al dottor Gargiulo. Dottore. Ma sicuramente per la prescrizione di uno psicofarmaco molto meglio il medico che la vicina di casa. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Sono davvero io. E lei davvero, davvero. Grazie al dottor Gargiulo e al professor Cavedini per essere stati grazie, con noi. Nicoletta, arrivederci, grazie a tutti. 800 24 00 24, c'è ancora tempo naturalmente per saltare la barriera rosa, per confrontarci con noi, per parlare di questa grande famiglia con cui abbiamo un rapporto un po' di amore e di odio. A volte, a proposito, basta parlare, no? Ci sono delle volte, delle occasioni, delle situazioni nella vita in cui siamo un po' confusi e avere qualcuno dall'altra parte di un filo che ci ascolta può essere d'aiuto. Questo è uno dei servizi offerti da Itaca, l'Associazione Volontari per la Salute Mentale. In linea con noi abbiamo Felicia Giagnotti, che è responsabile della formazione volontaria di Itaca. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta, grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Ecco, lei ha presentato il nostro servizio più importante, cioè il servizio di ascolto telefonico. Abbiamo una linea telefonica, l'800 274 274, che abbraccia tutto il territorio nazionale. È una linea d'ascolto a cui si rivolgono mediamente 4-5 mila persone all'anno e riceviamo anche 12-13 mila telefonate, perché le persone ci contattano e continuano, magari le medesime persone, a ricontattarci numerose volte. Noi offriamo loro l'ascolto, prima di tutto l'accoglienza, li aiutiamo a rompere la barriera del silenzio e dell'isolamento, perché è il primo passo per prendere consapevolezza del proprio disagio e per avviarsi poi ad una cura appropriata e ad una diagnosi corretta. Il nostro scopo, o meglio lo scopo della linea d'ascolto, è proprio quello di superare il pregiudizio, la paura degli psichiatri, la paura della malattia, superare anche l'ignoranza e stabilire un buon rapporto delle persone che hanno disagio con la cura e con gli specialisti della cura. Ecco, è una linea che ha avuto, appunto, avendo una diffusione nazionale, ha la possibilità di orientare alle strutture della cura su tutto il territorio nazionale. Abbiamo una banca dati che copre il territorio nazionale. Siamo quindi in grado di dare indicazioni, di dare consigli, di dare orientamenti a chi si rivolge a noi. Ecco. Quindi 800, lo vogliamo ripetere, perché sì, già alcuni sì. Ascoltatori mi hanno mandato un messaggio. Lo so che dare i numeri alla radio è un po' difficile perché non si ha subito la possibilità di afferrarli, ma li mettiamo naturalmente anche come sempre sulla nostra pagina di Cuore Denari. 800 274 274, è facile, perché il 274 si ripete due volte, dai. Sì. Avete notato in questo ultimo periodo, dottoressa Giagnotti, un aumento delle chiamate e il profilo? Ci sono più giovani, più persone anziane, più donne, più uomini? Diciamo che in quest'ultimo periodo abbiamo potuto notare un aumento delle presenze maschili e anche un aumento delle persone più giovani. Questo anche perché abbiamo diversificato i nostri canali di comunicazione. Prima, a parte il numero verde, abbiamo anche aperto una pagina Facebook, abbiamo avviato il servizio di Ita Chat, con lo scopo proprio di raggiungere un pubblico più vasto, perché i giovani difficilmente oggi usano il telefono. Bravi. Ecco, mm-hmm. I giovani preferiscono chattare, certo. Preferiscono andare a prendere informazioni sul sito. Quindi vi siete messi a disposizione con degli strumenti che per i giovani sono più familiari. Sono più familiari, e questo ha aumentato, diciamo, l'utenza giovanile e ci permette anche di cogliere di più i problemi degli adolescenti in una fase d'età più bassa, perché appunto è molto importante fare un lavoro di prevenzione. Ecco, quindi a tutti gli ascoltatori che mi hanno scritto degli sms dicendo ma a chi mi rivolgo, allora il medico di base assolutamente è una sentinella un po' del nostro benessere e della nostra salute. Noi vi abbiamo proposto la linea di Itaca perché ci sono questi volontari che sono formati e vi possono dare indirizzare anche ai centri, come diceva la dottoressa Giagnotti, sul territorio, dato che è una linea nazionale. Grazie dottoressa Giagnotti per essere stata con noi a Itaca. 800 274 274, e noi vogliamo chiudere questa bella puntata con il messaggio che è arrivato a tutti, è stato molto apprezzato, di Cecilia. Io vi saluto e domani torniamo in due insieme a Deborah.